Benvenuti, buonasera, bentrovati. Nuova puntata di Radio Noise. Nuovi argomenti, nuove situazioni, nuovi sproloqui, nuove parole, tutto quello che volete. E in sottofondo c'è il reverendo Marilyn Manson, per cui potete immaginare più o meno questo che cosa significa e dove ci porterà questa puntata. E noi settimana scorsa c'è stato un problema perché la puntata era silenzio in sala, però a un certo punto a metà dopo mezz'ora è saltata proprio il programma silenzio in sala perché non c'era Radio Noise, aveva provato a staccare il microfono e quindi a dare parola completamente alla musica, però non ci siamo riusciti, ma in realtà il titolo del puntata è stato preso in pieno perché silenzio in sala, quindi più silenzio di così dopo mezz'ora meglio non si poteva dire, non si poteva fare. E quindi stasera sponsored by Force, che ringraziamo, Radio Noise ringrazia gentilmente. La puntata è varia stasera, molto molto varia, e ci sono un po' di, è stata dettata dal cuore questa scaletta questa sera. Ma partiamo con un poco di jazz, blues, funky, super strap. Stasera cazzate a manovella, morfine buena. I think it's time for me to qua perché c'è questo problema? Qui abbiamo un po' di problemi. Ecco, adesso è tornata un po' di problemi con l'audio. E quindi dicevo, Morfin buena. Prova, prova. Ecco, adesso ci siamo. Abbiamo aggiustato un poco. Morfin buena direttamente dal Massachusetts. Loro sono un gruppo di blues di Boston, metà anni 90, la chicca, che poi è... Loro facevano un concerto nel 1999 e il cantante, il Mark Sandman, che guidava il gruppo, morì a Palestrina durante un concerto nel nome del rock, se non sbaglio, si chiamava l'evento. Del 1999, purtroppo ci ha lasciato. Tra l'altro, i Morfine, che sono stati inseriti anche in un film di Carlo Verdone, Viaggi di nozze, se non sbaglio, nella scena in cui loro sono in macchina che guidano a 200 all'ora e poi fanno anche sesso, però non vorrei dire una cazzata. E quindi questo è l'album che li ha portati al successo, che è Cure for Pain del 1993, però i pezzi che sono stati inseriti ad esempio nel film Viaggi di nozze dall'album Yes sono stati inseriti tre canzoni. Il video di Buena è anche molto molto bello. Io adoro, l'ho messo perché a me fa impazzire. La parte iniziale con cui inizia, no? La chitarra è bellissima, è calda, profonda, avvolgente. Poi questo miscuglio di, ecco, diciamo che Mark Sandman è importante perché sintetizzò il loro grunge implicito. Effettivamente, comunque, i Morfin nascono e muoiono in un periodo pieno. E diventano famosi soprattutto nel periodo proprio grunge, quindi vengono influenzati comunque anche Boston in qualche modo ha dato il suo contributo al grunge. E in questo pezzo magari non si può, se voi conoscete i gruppi grunge, ecco, i pezzi diciamo più famosi, i gruppi grunge, in questo magari non si capisce molto, anche se a me ricordano molto i Dinosaur Junior. Per certi versi, ovviamente. Passiamo a un altro brano. Qua non c'è poco da dire. Un maestro delle quattro corde. Un gruppo innovativo, spettacolare. Primus, my name is Ma. My name is Bud. quanto belli, quanto monotoni allo stesso tempo, così pesanti, così aggressivi. Sì, monotoni, se vogliamo monotoni. In Primus sono anche un po' monotoni, però giocano proprio su questo fatto. Poi il discorso dei Primus è un discorso molto più ampio, nel senso che si ferma alla musica fino a un certo punto, perché possiamo definirle dei cantastorie del rock, dei cantastorie degli anni 90, dei cantastorie dei tempi moderni, che la loro caratteristica è sempre stata quella di costruire delle storie, anche se vogliamo il modo in cui metricamente e melodicamente vengono cantati i brani. Anche questo, My Name Is Mod, è un racconto, no? C'è qualcuno che sta raccontando più che cantarlo, anche se vogliamo la voce di Les Claypool, bassista e cantante dei Primus, va un po' a raccontare su un basi con basi sincopate, per lo più. Questo pezzo è monotonissimo, è molto monotono, però è uno dei più belli, è sicuramente uno dei più belli. E quindi dicevo, raccontano storie, ecco, creano degli scenari, creano delle cronache odierne, dei cantastorie. Io non ho trovato termine migliore, sono dei cantastorie, degli stornellatori, se si può dire stornellatori, non lo so. E per esempio un altro brano che mi è venuto in mente, che quindi adesso andremo a ascoltare, anche se in scaletta non c'era, ma questo è il bello di Radio Noise, questa variazione all'ultimo minuto e all'ultimo secondo. Un esempio fra tanti, per esempio, un esempio fra tanti, per esempio, è Jerry Was a Race Car Driver, che è anche una colonna sonora della PlayStation, di un gioco della PlayStation. E quindi praticamente un pilota, un pompiere intrecciano i loro destini, che poi ovviamente culmina la storia, ovviamente in un epilogo tragicomico. E quindi andiamo ad ascoltare Jerry Was a Race Car Driver, dopo quasi 20 minuti di trasmissione, ottava puntata di Radio Noise, questa sera senza presentazione per il momento. La Forza ancora sponsorizza. Loro sono ancora i Primus e questa è Jerry Was a Race Car Driver. was a race car driver. Loro erano sempre i Primus, voi siete sempre in ascolto di Radio Noise. E questa sera ci sono piaciuti molto i Primus, tant'è che ho deciso di mettere anche un altro pezzo immediatamente dopo, quindi facciamo trilogia dedicata ai Primus, perché in realtà era da un po' che non l'ascoltavo, quindi ha fatto piacere anche a me riprendere vecchi ascolti rinchiusi nel tempo, rinchiusi nella memoria, quando qualcuno di mia conoscenza ai tempi del liceo cercava di suonare i brani dei Primus, abbastanza difficili, non perché lui fosse scarso, ma perché Les Claypool è uno dei migliori bassisti mai esistenti, che poi hanno fatto fortuna ai Primus perché sono nati in un periodo in cui anche il funk sdoganato con fraseggi isterici del basso dei Red Hot Chili, veniva sdoganato dai Red Hot Chili Peppers e quindi portato al mainstream, no? Che prima si era abituati ad ascoltare un altro tipo di funk, diciamo. E quindi anche per questo i Primus sono diventati più famosi, sono stati conosciuti ai più. Jerry was a race car driver, bella storiella tragicomica, come ho detto prima. E l'album che io consiglio, ritengo sia uno dei più belli, è Pork Soda, che è un album veramente veramente veramente carico di atmosfere strane, forse però è anche il più ascoltabile, perché se vogliamo gli altri album sono un po' più ostici, se vogliamo dirla così. Io volevo mettere un altro brano di Pork Soda, però purtroppo non l'ho trovato nella discografia, quindi ci dobbiamo accontentare di un brano altrettanto bello, però mi rimane un po' l'amaro in bocca, magari chissà se... ma non lo troverò per questa puntata, non possiamo, no, e non vi svelerò qual è il brano, perché altrimenti poi magari ve lo andate ad ascoltare se non l'avete mai ascoltato, se non avete mai ascoltato i Primus. E invece io voglio, Radio Noise vuole la esclusiva sui pezzi anche di 10 anni fa, che il tentativo è quello di farvi ascoltare anche musica che non avete mai ascoltato, oppure di riascoltare, come nel mio caso stasera, brani che non ascoltavate da un sacco di tempo. Too Many Puppies, Primus. Shot in the dark. Too Many Poppies da Fritzy Fry, del primo album in studio dei Primus, che è stato pubblicato nel 1990. E che stavo riflettendo su una cosa, adesso ho dimenticato completamente. No, ma stavo riflettendo, stavo ristudiando i Primus e la loro monoliticità, che ricorda anche un po' i Melvins, se vogliamo. Cioè quei ritmi serrati, però molto molto lenti. Cioè avete visto, avete sentito più che altro, comunque ci sono delle differenze. Già quando abbiamo ascoltato il primo brano era già molto più... Intanto mi chiamano dalla regia, però non possiamo rispondere. Era già molto più... lento in un certo senso. E niente, adesso un po' di deliri questa sera, però partiamo e ascoltiamo un altro brano che parla sempre di groove e di bassi, e loro sono gli Infectious Groove, e questo è Punk It Up. We'll be right back. sapete, quando uno non si dimentica di spegnere il cellulare, poi succedono queste cose. Però era una comunicazione importante, io mi scuso per aver tagliato così il discorso, che probabilmente non portava a nulla, come la maggior parte dei discorsi fatti in questo programma da Radio Noise. Infectious Groove, gruppo che si è divertito per 6 anni, ha fatto un poco di funky, ci ha suonato, io l'ho messo perché ci ha suonato un bassista che adesso sta suonando in quel gruppaccio che si chiamano Metallica. Chiamo gruppaccio, io lo dico non in senso ironico, ma tutti i metallari che ascoltano i Metallica mi daranno addosso, mi lanceranno bottiglie, spero vuote di birra, perché se le lanciate piene mi sa che non è proprio cosa. E così li ho voluti mettere perché è un pezzo dinamico, anche se a me non piacciono molto in generale gli Infectious Groove, però c'è questo misto anche con un po' di punk, un poco, no, hardcore no, però un punk un po' californiano che possono ricordare vecchi gruppi, no, ne so, gli Exploited, io la butto lì, questo come... no? Passata la prima mezz'ora, noi ricordiamo i contatti, se voi non ve li ricordate ve li ricordo io. RadioNoize@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN, RadioNoize010@gmail.com per scrivere le email, per avere informazioni. E a proposito di informazioni, ho subito 2 appuntamenti che ci saranno a breve. Uno probabilmente sarà il 23 giugno e saranno ospiti un gruppo rock italiano della Calabria Saudita, si chiamano Maieutica, se volete cercarli sul MySpace, credo sia myspace.com/Maieutica, no, Maieutica Style, ecco, Maieutica Style è scritto in inglese, non italianizzato, quindi scritto Style, ma Style, con la Y. E poi un altro bel appuntamento, però questo a luglio, non sappiamo ancora quando, con un personaggio romano della scena grind che però si adatta benissimo al blues country, quindi faremo un viaggio sulla Route 66 da est a ovest. E faremo questo viaggio insieme a Blues Against Blues Against Youth, che è anche su MySpace. Ma basta, perché ho detto già troppe informazioni. Quindi innanzitutto non perdete l'appuntamento il 23 con i Maieutica in studio, quindi serata live di Radio Noize, sempre in acustico, sempre in stile Radio Noize. E poi vabbè, prossimo martedì sarà un programma molto delirante, altro ospite in studio, altri deliri, direttamente dall'inferno arriverà. Andiamo in Nord Europa, noi li abbiamo già sentiti, però ce li riascoltiamo con molto piacere. Refused. Baby, baby. misto tra l'elettronica, il punk, l'hardcore. Sempre bello riascoltarli. Refuse the Shape of Punk to Come è il titolo del brano, che poi dà il titolo all'album Opera Omnia dei Refused, gruppo scandinavo. E tra l'altro potete trovare all'interno di questo disco anche il contrabbasso, potrete sentire. È un pezzo finale delirante, ma delirante non perché in termini di aggressività, proprio perché è completamente l'opposto. Ascoltatelo, non posso che dire ascoltate, perché io potrei dire qualunque cosa, potrei parlare della loro capacità di unire e coniugare vari generi musicali e di essere allo stesso tempo molto incisivi, melodici e anche vari, quindi non monotoni, quindi potrei dire che hanno una capacità di costruire le linee della chitarra che ricordano un po' il surf per certi versi, il rock and roll in alcuni frangenti, ma anche i tipici accordi funkeggianti. Loro nascono come una band hardcore. Poi questo album The Shape of Punk to Come è un miscuglio di tante cose, tant'è che è un brano che è inserito sempre in questo disco. Si sente prima la presentazione di un DJ di una radio italiana che presenta appunto Refused come gruppo da discoteca elettronica, adesso non house se non sbaglio. È molto interessante questa cosa. Questo per farvi capire che cosa potete trovare in quest'album, se non l'avete ancora ascoltato. Se non l'avete ancora ascoltato, molto male. Poi vabbè, ne abbiamo già parlato effettivamente più di una volta dei Refused, però ci sono dei gruppi che non stancano mai e quindi non ci si può allontanare, perché non ci si può allontanare. Rimaniamo nell'ambito punk. Loro sono dei maestri del punk, almeno all'interno di questo gruppo c'è uno dei... No, sono tutti maestri del punk. Punk californiano anni 90, quello fresco, quello da canottiera, pantaloncini corti, infradito. A chi piacciono, cioè a chi non piacciono l'infradito, io lo so se mi stai ascoltando. L'infradito spacca. Transablance, DJ. Nobody get hurt, they said. Make one wrong move, man, you'll wake up dead. I exercise my lyrical style instead. Lord, why you're dead and gone and forgotten, I said. Are they gonna come back for you? Nah, other story, sorry, but true. Lord, if you really want them to go, nah, oh, you're so goddamn cold. We're gonna make it on our own. We don't need anyone. Lord knows we don't. We don't need anyone. fucking day to my best fucking night. Bet my last red cent that you couldn't stand the sight. From lots of loved ones to life of drug funds, they counted me out for what? I'm not done. Give me a chance to shine and I'ma blind the world. Take your stand and be the voice of those who cannot be heard. We're gonna make it on our own. We don't need anyone. Lord knows we don't need you. We're gonna make it on our own. We don't need anyone. Lord knows we don't need you. Watch me now. E qui con i Transplants scatta la voglia di estate, no? Scatta la voglia di mare, di sole, anche se ancora di sole se ne sta vedendo poco, almeno da queste parti. In realtà non c'è ancora molto sentore di odore di estate, se non quando, se non dopo che ha finito di piovere. In realtà quell'odore è di quello, è quello della pioggia estiva. Che cosa vado a sentire, no? Transplants, che dire? Tim Armstrong, Rancid, Rob Eston, che è un, più o meno è un po' più anonimo rispetto agli altri componenti dei Transplant, ha fatto collaborazioni con i Rancid, ovviamente con gli AFI, ma qui dentro ci sono già a dire Tim Armstrong, leader indiscusso dei Rancid, è già a dire qualcosa. E poi c'è un certo Travis Barker, che anche se suona nei Blink, suona nei Blink 182, però tecnicamente ci si può solo dire maestro. Loro sono sotto la Hellcat Records, che è un'etichetta, una casa, sì, etichetta, è una casa discografica che è stata, diciamo, si è divisa, diciamo, una costola della Epitaph Records, che è la casa discografica più importante indipendente, però, cioè, se parliamo di indipendenza negli Stati Uniti è sempre un concetto abbastanza relativo, quindi diciamo casa indipendente, ma non è la stessa, non ha lo stesso significato che può avere quando si parla di una casa, anzi si parla di etichetta indipendente qui in Italia o in Europa, quindi ovviamente il concetto è relativo, però non è una major, mettiamola così. E di derivazione alla Epitaph Records, ma anche se poi alla fine molte band hanno accordi con tutte e due, è perché semplicemente la Epitaph ha la struttura distributiva per esportare dagli USA, quindi America, Europa e Asia prevalentemente, vabbè, no, manca nulla, l'Africa non credo, purtroppo in Africa non hanno tempo per acquistare il disco, i dischi prodotti dalla Epitaph o da altri, hanno problemi ben più gravi, quindi sole, mare e tanti pantaloncini, tanta acqua. Qua c'è la voglia, è grossa, grande. Sto scivolando nella, sì, non so, sto scivolando nella decadenza più assoluta. Non mi va di parlare dei gruppi, non troppo, ne abbiamo parlato forse troppo. Di che cosa vogliamo parlare? Di nulla? Si potrebbe anche parlare di nulla. Potrebbero fare discorsi sul nulla che durano ore. D'altronde, se girate i canali, discorsi sul nulla, i canali in TV, discorsi sul nulla, ce n'è pieno. The Dillinger Escape Plan, Milk Lizard. E questo va. Don't do it alone. Don't say no, dance no. The Dillinger Escape Plan, dedicata a gruppo dedicato a John Dillinger, famoso rapinatore, è uscito anche il film recentemente, no? Se siete appassionati di film, io ancora non l'ho visto, andrò a vedere. Dillinger Escape Plan, quando la matematica non è un'opinione ma è un atteggiamento furioso sui tasti di una chitarra o su un pianoforte. Avete sentito anche il pianoforte? Sì, perché si ispirano anche al jazz, al free jazz, che è il jazz per essere precisi, è tutta un'altra cosa. Troppo schematico, troppo. Non ci piace il jazz, questo ci piace molto poco, ci piace il free jazz. Non vi sto a spiegare, adesso non mi sembra il caso di mettersi a fare un discorso sul free jazz o sul jazz, anche perché non c'è contraddittorio, a me non piace molto quando non c'è contraddittorio e non mi piacciono molto in sostanza i monologhi. Però nonostante questo ho deciso di fare un programma in radio e la cosa potrebbe risultare alquanto strana, ma fare programma in radio forse corrisponde ad altri aspetti del carattere di Radio Noise e di chi ci gira intorno, no? E forse un po' di egocentrismo magari, un po' di manie di protagonismo. E chi non ce l'ha le manie di protagonismo? Tutti nel loro piccolo comunque hanno delle manie di protagonismo, anche con i genitori, soltanto con i genitori o con i cugini o con il fratello. Spesso siamo individualisti è la natura dell'uomo, in sostanza, essere individualista. Poi c'è chi riesce a mutuare questa cosa, questa caratteristica, se vogliamo, spesso innata, chi ce l'ha di meno. Però comunque, se andate a vedere, tante cose la si fanno anche perché quando si aiuta qualcuno, magari perché non si vuole ritrovarsi nella stessa condizione, allora cercare di evitare che quel tipo di situazione, che può essere una situazione di povertà o di altro tipo, non possa capitare a noi stessi. E questo non significa però in questo caso essere egoisti, ma cercare di eliminare delle cose che potrebbero colpire noi stessi anche. Quindi, se vogliamo, a una sorta di individualismo letto a larghe linee. Intanto The Sound of City qui a Radio Noise, che iniziava a fare caldo, quindi dopo questo piccolo monologo adesso riprendiamo a parlare di musica e ascoltiamo un altro gruppo che ha qualcosa di matematico. Sono un poco più leggeri, però Up the Drive-In. Loro erano gli At The Drive-In, gruppo post-hardcore, sempre degli anni 90, perché di anni 90 si parla, soprattutto si parla degli anni 90, ci ascoltiamo, ci piacciono, gli anni 90 ci piacciono moltissimo. El Paso, in Texas, chi conosce El Paso sa di cosa sto parlando, chi non conosce El Paso ovviamente non sa di cosa sto parlando. Fugazi su tutti, anzi Black Flag su tutti, considerati eredi naturali. Un gruppo molto simile, anche se non possono essere considerati allo stesso livello degli At The Drive-In, però che utilizzavano, anzi altri due gruppi simili, che però avevano questo stile, vogliamo dire, post-hardcore. Io non li identificherei neanche, perché sì, ci sono fraseggi delle chitarre in alcuni brani hardcore, però in questo cosa c'è di hardcore? Pongo questa domanda: cosa c'è di hardcore in questo brano? È chiaro che si mette il post, quindi quello che viene dopo l'hardcore, che vuol dire questo? È un po' riduttivo dire, ma comunque. Dicevo, due gruppi che ricordano gli At The Drive-In sono The Boy It's Car e poi anche Vendetta Red. Poi dopo gli At The Drive-In sono, ovviamente sono stati formati Mars Volta, però non li ho nominati perché non possono ricordare. Cioè sì, ricordano, ma sono una continuazione degli At The Drive-In in sostanza. I due più importanti esponenti degli At The Drive-In hanno poi formato i Mars Volta. Quindi invece The Boys Car sono un poco più tranquilli, hanno queste aggiunte un po' aggressive, un quattro quarti serrati come gli At The Drive-In. Non sono male, ma niente di eccezionale. Gli At The Drive-In sicuramente hanno una marcia in più. Radio Noize, @hotmail.it. Quando è passata un'ora e un quarto e vista l'ora, è un nuovo giorno, è appena iniziato, è un nuovo, un vecchio giorno com'era. Radio Noize @hotmail.it per aggiungere il contatto MSN, invece radioroize010@gmail.com per scrivere le email. Adesso ci andiamo ad ascoltare un classico dei classici. Come on. poco da dire sui Rage Against the Machine. Anche qui c'è, no, oddio, c'è poco da dire. Ci sarebbe un sacco di cose da dire. Un gruppo, io lo ripeto sempre questo, ma perché credo molto in questo. Un gruppo che non, o meglio, i loro dischi che non suonano mai vecchi. È uno di quei gruppi che rimarrà sicuramente nella storia. Come abbiamo i gruppi che ci portiamo ancora dagli anni 70, avremo i Rage Against the Machine che ci porteremo fino al 2050, al 2060, al 2070, cioè fino alla notte dei tempi. Quando si fondono 4 persone, 3 persone, quanti sono, si crea quell'alchimia e vengono fuori dei dischi che difficilmente riescono a perdersi tra i milioni, dalle milioni di produzioni. Questa è la tipica rock band. Il discorso è che non siamo meno abituati rispetto agli anni 70, perché già negli anni 90 c'era una grande produzione musicale, un'enorme produzione musicale di milioni di gruppi. Adesso non ne parliamo proprio, anche perché ormai con le nuove tecnologie si riesce a registrare un album in casa, quindi chi ha un minimo di curiosità o anche di competenza si registra l'album in casa e sforna, e addirittura adesso molti non danno neanche un supporto fisico, ma le buttano in rete grazie a MySpace. E quindi adesso è ancora più difficile rispetto agli anni 60 riuscire ad emergere. Quindi credo che i gruppi che riescono, che sono riusciti ad emergere negli anni 90 e che riescono ad emergere adesso, sono ancora più fondamentali, e che rimangono, però, perché se riesce ad emergere ma duri 5 anni non succede nulla. Cioè, duri 5 anni, puoi durare 5 anni, ma devi durare come gruppo fisicamente, ma poi come eco devi durare molto di più. Però se duri 5 anni come eco e come gruppo, non è quello il discorso. I Rage Against the Machine alla fine sono durati 9 anni, diciamo, anche se poi hanno ripreso l'attività nel 2007. Però prima di perdermi nei miei discorsi, dicevo, la forza dei Rage Against the Machine, o dei gruppi che ancora oggi ascoltiamo degli anni 90, la loro forza è ancora più grande, proprio per il discorso appena fatto, cioè perché per la moltitudine di gruppi e di produzioni. Poi mettiamo anche che Rage Against the Machine hanno portato avanti dei discorsi politici, per cui se, a prescindere dal fatto se si è d'accordo o meno con la loro posizione politica, però se chiaramente porti avanti un messaggio in cui credi, un messaggio forte, in qualche modo colui che l'ascolta se ne rende conto. E anche forse anche questa la forza di un gruppo. Se suoni tanto per suonare e non dai nulla di tuo, che non deve essere per forza un messaggio politico, non deve essere per forza un messaggio sociale, possono essere anche storie della propria vita, che però se vengono messe in un certo, con un certo fervore, se vengono cantate, se vengono portate avanti con un certo fervore, sicuramente hanno un grosso impatto. Bando alle parole e bando alle ciance, perché c'è ancora un bel po' da ascoltare e come al solito rimane sempre poco tempo. Stasera, ora mi stavo rendendo conto che effettivamente la scelta della scaletta è stata casuale, però come succede tante volte, ma come succede credo alla maggior parte delle persone che ascoltano la musica con lo stomaco e con l'anima, il discorso è venuto fuori da sé. E questa sera il discorso è molto incentrato sul funk, che le sonorità funk le abbiamo ritrovate, anche se più o meno nascoste, però le abbiamo ritrovate in tutti i gruppi che abbiamo ascoltato stasera. Anche il brano dei Refuse aveva qualcosa di funkeggiante, io dico funk, capitemi. Zebrahead, check. Zebrahead con Check, gruppo rap metal del 1900, della metà degli anni 90, 1996 se non sbaglio. Di loro conosco ben poco, però questo brano mi piace molto. In realtà dovrò approfondire, effettivamente, pensandoci, perché comunque hanno prodotto un po' di album. Quindi ascolterò e vi farò sapere. C'è un certo, quello che mi ha attirato l'attenzione, un certo Justin Mauriello, che è cantante, che dava, c'era una certa assonanza con Tom Morello. Magari si va a scoprire che sono parenti. E che ora suona negli 8-Kate. Questo è quello che ho da dirvi. È andata via quasi un'ora e mezza. Abbiamo fatto un po' di discorsi vari. Come dicevo prima, si possono fare anche discorsi sul nulla. In realtà abbiamo parlato fino ad ora di tutto e niente. E sono stato anche fin troppo serioso, che stasera senza ospiti sono spesso serioso. Le ultime due puntate sono state molto seriose. E quindi ricordiamo due appuntamenti. L'ho detto solo una volta, ora pensandoci, ma in realtà sono appuntamenti a cui teniamo molto. Martedì 23 giugno, ospiti in studio Maieutica dalla Calabria Saudita. E gruppo rock alternativo di Verdeutica, come è stato un termine coniato da un loro amico, perché c'è una certa somiglianza con i Verdena, ma anche Maieuticuns, e quindi capite perché. Un gruppo molto valido, belli, giovani, freschi, bravi. E poi a luglio, però ancora non si sa quando, Blues Against You. E invece adesso ci andiamo ad ascoltare una signorina con due palle sotto. We'll be right back. Guano Apes, Open Your Eyes, Proud Like a God, del 1997, gruppo tedesco. Crossover, io dico crossover. C'è chi li etichetta come post-grunge, ma perché, ecco, l'esempio del post. Perché vengono dopo il grunge, post-grunge? Qual è la relazione tra il sound dei Guano Apes e il grunge? Spiegatemelo. Perché alcuni gruppi che sono venuti dopo il grunge, dopo l'epoca grunge, che però avevano delle differenze, soprattutto nelle distorsioni, nella grossezza delle chitarre, ma come cantato e come impostazione della struttura dei brani, se vogliamo dire così, ricordavano in qualche modo il grunge, come i Godsmack, per esempio. Ricordavano molto un misto tra gli Alice in Chains, forse, e i Soundgarden, diciamo, che sono la frangia più estrema, sono state la frangia più estrema del grunge. Capitanate da Sandra Nasic, non so se si pronuncia Nasic, ma credo Nasic, forse, che ricorda molto Elena Di Cioccio, questa ve la dico. VJ, figlia di Friends Di Cioccio. E non dico chi è Friends Di Cioccio. Non credo sia il caso di dire chi sia Friends Di Cioccio. Sono spariti in realtà i Guano Apes. Hanno fatto una grossa fortuna appena sono usciti con Proud Like a God. Tra l'altro hanno fatto anche una collaborazione con gli Apocalyptica, gruppo di archi che riprende, fa cover di qualunque gruppo, solo con gli archi, molto molto bello. E vi consiglio di andare a scovare, quindi di ascoltare veramente qualunque gruppo, anche metal. C'è un brano dei Metallica, adesso non mi ricordo, perché la produzione degli Apocalyptica è talmente vasta e grande che sono norvegesi, sono scandinavi, sì, norvegesi, finlandesi, e inizio a perdere colpi. E niente, è un brano che ci piace, è un brano bello, è un brano bello carico, bello tosto. E quando le parole finiscono, arriva il momento di passare al prossimo brano, perché il tempo è poco e le canzoni sono molte, come al solito. Andiamo sul leggero. Ta ta ta ta ta ta. I'm Norma Jean, Memphis Will Be Late to West, Bless the Martyr and Kiss the Child, album di debutto di questa band americana Christian Metalcore. Attenzione, attenzione, attenzione. Norma Jean è il vero nome di Marilyn Monroe e a loro dedicano il gruppo. Nel calderone dei gruppi metalcore, stati prodotti anche da un certo Ross Robinson, produttore di tanti gruppi, tra cui i Cure o gli At The Drive-In che abbiamo ascoltato prima, produttore fondamentale della scena musicale metal e non, prodotto Sepultura, i Korn. Fu lui che insegnò a Jonathan Davis, cantante dei Korn, a cantare e a non distruggersi la gola, quantomeno nell'immediato, quindi a mantenere un certo vigore sonoro, un certo vigore vocale per qualche anno. E tipico gruppo metalcore melodico viene identificato. Dal live non sono molto, sono uno di quei gruppi che in studio funziona benissimo, però poi perdono un poco di capacità a livello in ambito live, e questa è una cosa che si riscontra molto spesso in un sacco di gruppi. Vai a capire perché, non si sa per quale motivo. E io ritengo che quando è così, io ritengo che questi siano gruppi che non sono, che non dureranno anche molto, perché non hanno, cioè l'aspetto live è l'aspetto importante di un gruppo. Poi quello che è l'ambito dello studio, della registrazione, cioè che serve ad imprimere nel tempo, no? I brani, le canzoni, però dovrebbe arrivare dopo l'aspetto studio. Però invece ci sono gruppi che nascono prima in studio e poi nascono dal vivo, e questo è un deficit e comporta quindi anche una non buona capacità a livello live, cioè non so, non hanno un'attitudine, sono magari bravissimi tecnicamente, senti dei dischi che sono delle opere perfette, forse proprio questo è che è troppo perfetta in studio, cioè qualcosa che non va, vedi ad esempio magari la batteria triggerata. Chi non sapesse, è un metodo, il trigger è un metodo per dare la stessa intensità ad ogni colpo che viene dato sul rullante con la bacchetta, perché ovviamente è difficile fisicamente riuscire a dare la stessa dinamica in ogni colpo, no? Sul rullante, soprattutto se i colpi sono continui, intensi, anche in questi generi, quindi non è una battuta ogni due quarti, per esempio, per cui riesci ad avere il tempo di dare la stessa più o meno botta, stessa intensità. Quindi il trigger è una delle tecniche usate per dare la stessa intensità alla batteria. Quindi magari utilizzando questi trucchetti vedi anche la voce un po' megafonata o citofonata. È un trucco, no? Perché dà più distorsione alla voce quando magari non ce l'ha, quando non si riesce ad arrivare a una certa distorsione naturalmente. E quindi tutto questo poi viene fuori quando sei dal vivo. Magari non ce la fai perché lo stesso brano lo registri in 7 giorni, registrando una frase al giorno. Quindi è chiaro che quella frase ti verrà potentissima. Però poi vai a dire le 7 frasi nello stesso minuto e vedi cosa succede. Gruppo invece che dal vivo ogni tanto pecca, però per più delle volte fa grandi cose, perché loro sono stradaioli, loro nascono dalla strada, rimangono in strada. Eppe, represent. Yeah, where my dogs at? Get your drinks up, your joints up, ladies pull your tits. fucking wreck this hoe. Shoot a shot of AR, then I'm dressed this hoe. I roll a joint and smoke it while I beef inject this hoe. They say I need to sing to sell more records, yo. Keep it clean and write some lyrics more respectable. You faggots need to goggle on these testicles. This is punk rock, bitch, I'm a spectacle. But you don't hear me though, I don't give a fuck. Siamo giunti quasi alla fine di questa ottava puntata di Radio Noise. Loro erano gli Ed Pe con Represent da Only in America. Li abbiamo già ascoltati con altri brani nelle puntate precedenti. Ogni tanto qualche gruppo va rimesso per ricordare un po' e anche per ascoltare piano piano, no? Nuovi brani. Quindi, diciamo, siamo giunti quasi alla fine anche di questa ottava puntata, se la memoria non inganna, se i conti non ingannano. Sarebbe la nona, se non sbaglio, però quella di settimana scorsa è saltata, quindi diciamo che è l'ottava puntata. Puntata silenzio in sala in cui voleva parlare soltanto la musica, non ha funzionato, o meglio, sono stati dei problemi tecnici che hanno fatto saltare tutto quanto l'ambaradan e non siamo riusciti più ad andare in onda. Ma non fa niente, sono cose che succedono, è normale. Quindi ricordo soltanto per la terza volta i contatti. Voi siete innanzitutto in ascolto di Radio Noise, che va in onda ed è inserito nel contenitore di Transizione di Fase, www.transizionedifase.org, c'è anche la pagina Facebook. Dopo Radio Noise andrà in onda come quasi ogni sera, a meno che non ci sono ovviamente dei problemi o ci sono degli eventi live che ovviamente hanno la priorità su tutto, eventi live musicali o assemblee o manifestazioni o eventi live in genere. Quindi andrà in onda Out of the Shell. E quindi ricordo i contatti: radionoise@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN, radionoise010@gmail.com. Radionoise si occupa anche di gruppi emergenti, quindi se volete entrare nella rotazione di Radionoise scrivete a radionoise010@gmail.com, 010 è scritto in cifre, e proponete un paio di brani bravi, una piccola biografia, poi verrete inseriti in rotazione, nella rotazione di Radio Noise. Manca poco e vorrei farvi ascoltare tre brani, se ci riusciamo. Loro sono i Comeback Kid, Wake the Dead, svegliamolo sta morte. Wake the Dead, band canadese hardcore puro, un po' melodico, anno 2000, periodo sono ancora in attività, vari cambi di line-up come succedono in queste situazioni e come succede sempre ovviamente. Che dire, questa puntata è stata per me anche motivo di riflessione interna e anche di relax dal punto di vista mentale dopo una giornata abbastanza intensa, come ce l'avranno avuto in molti. E spero di essere riuscito nel solito intento, Radio Noise, di essere riuscita nel solito intento, quello di far passare 2 ore staccando la spina senza poi andare a riflettere troppo, perché è importante riflettere su tante cose. Volontariamente Radio Noise non si occupa, se non veicolandolo in alcuni casi, non si occupa di della società, del sociale, delle notizie, di quello che ci succede intorno, ma è una scelta voluta, che sia perché comunque ci sono altri programmi di questo contenitore di transizione di fase che invece si occupano di contenuti, anche se si parlava ieri sera con Frodo di Salute e Felicità, che va in onda il mercoledì sera alle 21, che invece lui si occupa di contenuti, si diceva appunto che in realtà la musica è contenuto, perché i brani, le canzoni hanno anche loro dei contenuti, però diciamo che non si occupa di contenuti in senso col linguaggio, ecco, ma si occupa di contenuti con la musica. Non so se sono riuscito a farmi capire, spero che abbiate capito. Quindi volutamente non si occupa del mondo in generale, del mondo che tutti quanti sono abituati a vedere e dal quale prendono le varie emozioni negative o positive. Così non vuole parlare troppo della sua vita. Sto facendo così perché sto perdendo tempo, sto controllando l'orario per cercare di essere puntuali, ma il brano è finito, 3 minuti e 02 secondi, anzi è 20 secondi a parlare del nulla, e quindi adesso il penultimo brano di questa serata, prima dei saluti, prima di lasciarvi con Rage Against the Machine. Stasera va Rage Against the State of the Union. Just to die on to the po' di sproloqui finali per l'ultimo discorso, per lasciarvi definitivamente dopo questa ottava puntata di Radio Noise. Ringrazio chi è stato in ascolto e andiamo velocemente perché è ora di chiudere e passare la palla Out of the Shell, delirio indipendente di intervento sociale. Ringrazio chi è stato in ascolto, ringrazio chi è sempre in ascolto ogni martedì sera, e quindi vuol dire che in qualche modo Radio Noise piace, questo è l'importante. Vuol dire che riesce anche a combaciare con i vostri gusti musicali, tenendovi incollati per 2 ore ogni martedì sera, vuol dire che qualcosa di interessante c'è. Ma se anche non ci fosse sarebbe uguale, però fa piacere. Vi lascio con i Nine Inch Nails, quindi chiudiamo in sordina dopo questa puntata dedicata per lo più al funk nelle sue varie sfaccettature, nei suoi vari generi, dopo qualche sproloquio e qualche discorso sul nulla. E questo è niente. Vi do appuntamento a martedì prossimo con un ospite importante e delirante in studio, e non dico altro. Buonanotte a tutti, grazie di essere stati in ascolto. Loro sono i Nine Inch Nails e voi avete ascoltato Radio Noise. Buonanotte. I'm all happening.